Oggi il tema principale è l'azione necessaria a livello europeo e a livello nazionale per uscire dalla crisi. Per procedere nell'azione di risanamento dei conti pubblici, per superare l'emergenza che oggi minaccia le prospettive dell'economia, per avviare l'Italia su un sentiero stabile di crescita, possiamo far leva su fattori favorevoli. Beneficiamo di un indebitamento del settore privato e di un debito netto complessivo del Paese verso l'estero, entrambi contenuti. Le nostre banche sono solide, sono uscite senza danni rilevanti dalla crisi finanziaria che ha invece scosso grandi istituti esteri. Disponiamo di risorse fondamentali che caratterizzano da sempre gli italiani: l'iniziativa individuale, la capacità di innovare, l'energia nel lavoro. Dobbiamo aver fiducia nelle possibilità di crescere della nostra economia. Dobbiamo trovare un intento comune al di là degli interessi particolari e di fazione. Dobbiamo riscoprire un agire per il bene di tutti.